Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Voglio mille lire che ci date, ci deve andare per tutto, per la spesa, per le scarpe, per il tram. E poi come mai hai già finito i soldi? Se ti ho dato ieri mille lire e qui il denaro si sperpera. Già, perché al bar voi con gli amici il denaro invece lo sperperate. Non ricominciamo con gli amici, non ti permetto di ricominciare con gli amici. Sì, signore, che ricomincio, perché con gli amici siete sempre allegri, beati, fatevi spiritosi, venite a casa un muso così. E noi oggi, allora che siamo tutti i giorni a casa sole, con chi dobbiamo parlare? Con la bambino? O ci dobbiamo tagliare la lingua? Magari. Magari, cosa credete che quello che raccontate voi sia interessante? Ma lo volete capire una volta per sempre che a noi di partene, di coppi, non ce ne frega niente, ma niente, niente! Non bestemmiare! Maledetta, cosa dici? Quali sono i problemi tra uomini e donne? Lunedì sarà la giornata internazionale contro la violenza alle donne, data che ormai è già anticipata ampiamente su tutti i giornali. Ho in mano l'inserto R2 di Repubblica, che è esattamente il contrario di quello che vorrei fare questa mattina. Questa mattina sono solo, faccio le mie riflessioni, aspetto che mi chiamino le persone del pubblico all'800 24 0024. Io pongo una domanda, non voglio fare l'elenco delle donne martoriate, delle donne sfregiate, delle donne torturate, delle donne fatte a pezzi da uomini che odiano le donne. Non voglio nemmeno fare un'analisi di quello che sia il vilipendio del corpo delle donne attraverso i media. Trovo che siano discorsi, almeno questo secondo, abbastanza antico, abbastanza trito. Non esiste esposizione mediatica del corpo delle donne che poi istighi uomini che possono considerarsi tali esercitare una bieca e cruda violenza contro le donne. No, vorrei capire invece, aiutandomi con voi, quale sia il problema tra uomini e donne. Perché ne stiamo parlando? Molte volte ho l'impressione che dietro la parola femminicidio esistano delle professioni di esperti in femminicidio. È oggettivamente vero, è drammaticamente concreto e reale, e oggi ne abbiamo, grazie ai tanto vituperati mezzi di diffusione di massa delle informazioni, un'idea molto più chiara, molto più precisa. Oggi la donna sfregiata con l'acido perché il fidanzato geloso e imbelle, serio professionista, manda una persona a buttare dell'acido addosso, ha un volto, può esprimersi, può parlare, sappiamo esattamente quali sono le circostanze. Ma perché questo accade? Accade probabilmente perché c'è qualcosa di assoluto, qualcosa di condiviso, qualcosa nell'area che non funziona. Non credo che saranno le giornate internazionali, non credo che saranno le donne che scendono in piazza che ci daranno comunque una soluzione di questo problema. Forse bisognerebbe guardare dentro ognuno di noi, siamo noi uomini e non siamo quelli che si mettono la maglietta fighetta, si vanno a fare le belle foto, dicono io non meno le donne e vanno su tutti i cartelloni. Hanno scelti solo perché sono carini, solo perché sono noti, solo perché serviva un testimonial appariscente, altrettanto quanto serve una donna discinta, carina, con delle belle tette per fare la clan della birra, fare la clan di qualsiasi prodotto. Cosa cambierà questo nella radice dell'uomo violento? Quale uomo violento? Quale uomo bruto? Quale uomo che si lascia prendere dai più profondi, più biechi istinti della sua animalità e quindi si rivolge brutalmente verso una donna semplicemente perché non la capisce, non la contiene, non ha i parametri per stabilire l'esistenza di un essere diverso da lui, un essere di sesso femminile, ne intuisce il potere estremo, assoluto. La donna terrorizza l'uomo, l'ho detto più volte, una cosa che a me piace molto, è credenza antica che le donne dei pescatori, lo ripeto, l'avrò detto molte volte, di fronte al mare in tempesta, quando i loro uomini sono al largo e rischiano la vita, si mettono in riva al mare, si alzino le gonne e mostrano le vagine al mare, perché pensano che il potere della loro femminilità è talmente forte, tale da placare la tempesta. E in un momento in cui ancora corriamo dietro alle scie chimiche e vogliamo pensare che dei disastri idrogeologici dati dalla scelleratezza umana siano motivo di qualche complotto profondo e sia una radice che nessuno vuole dire, beh, capiamo invece quali sono le scie chimiche per cui gli uomini hanno così paura e fottuto terrore del potere profondo delle donne. Non ci sarebbero integralismi, non ci sarebbero contrapposizioni così radicali fra Oriente e Occidente se al centro non ci fosse il desiderio estremo di contenere la donna. Sembra che quasi tutto La linea di discrimine fra noi e il mondo che culturalmente ci si contrappone sia sul fatto donne velate o donne spogliate, donne imprigionate o donne liberate, donne da fustigare se mostrano le caviglie o donne da fustigare perché fustigare le donne dà gusto a noi e a loro. 800240024, il film di Totò Aveninchi era del 52, ne è passato di tempo, ma qual è il problema oggi fra uomini e donne? Io praticamente sono stata molestata telefonicamente per diversi mesi da una persona che praticamente si masturbava al telefono. Io sono stata insieme con una persona più grande di me. Lui ha potuto negli anni, nel tempo, sapermi manipolare psicologicamente, nel senso allontanarmi da amici, farmi cambiare lavoro, però l'ha saputo fare in modo molto strategico. Io sono figlio di un alcolizzato e mio padre quando ero piccola picchiava spesso mia madre, però il grande insegnamento di mia madre è sempre stato quello di difendersi, perché quando lui cominciava ad alzare troppo le mani gli dava un calcio ben assestato dove una volta si diceva non batteva il sole. Il problema è stato che cominciamo a sfondare le cose che non ci interessano, togliamo gli uomini che patologicamente hanno qualche problema, qualche disturbo profondo, gli uomini alcolizzati, gli uomini drogati, gli uomini folli, gli uomini che avrebbero bisogno di essere curati, quindi la loro violenza nasce da una loro profonda malattia, oltre da un atteggiamento sbagliato. Togliamoli, perché questi non interessano la generalità comunque dei comportamenti. Togliamo l'idea del possesso, l'uomo che si masturba al telefono perché in realtà ha paura, ha una paura fottuta, come se fosse lui stesso il nubifragio che le donne tengono a freno semplicemente mostrando la vagina, talmente ha paura di quella donna che deve farlo al telefono da solo, contaminarla a distanza senza esserne contaminato, senza essere messo alla prosa. Togliamo l'uomo astuto, maestro nell'arte della seduzione, che avvince a sé la donna e ne fa un suo oggetto, un suo possesso. Lei se ne rende conto, è avvinta come nella tela del ragno, ma allo stesso tempo si rende conto di subire un uomo. È un gioco che fa piacere a entrambi? È un gioco che li sostiene? O è qualcos'altro? Qual è il vero problema fra uomini e donne? Dario, buongiorno. Buongiorno, signor Cristino. Volevo il suo parere riguardo a una cosa che ho notato io negli ultimi mesi, riguardo l'aggressione con l'acido, a cui una bruttissima cosa che è avvenuta in Italia negli ultimi mesi. Io ho notato che dal mese di novembre dell'anno scorso, che si verificò il primo episodio, poi avendo dato molto spazio sui media, sui giornali, telegiornali, questa aggressione brutale è stata ripetuta in molte parti d'Italia, in tutta Italia. Volevo sapere come si può reagire sui media per porre combattere il fenomeno dell'aggressione alle donne, ma non pubblicizzare la metodologia, soprattutto queste metodologie molto aggressive. Guardi, io non credo al controllo mediatico, non credo che la macchina dell'informazione, che è sempre più capillare, sempre più invasiva, sempre più diffusa, sempre più priva di mediazioni, possa essere controllata. Bisogna educare le coscienze, educare le persone a capire, a comprendere, a non essere schiavi e subordinate a quel tipo di informazione. Lei tocca un tasto molto giusto. Dalle nostre parti non si sfregiavano le donne. Dalle nostre parti gli uomini che sfruttavano le donne gli tagliavano la faccia col coltello, oppure le colcavano di botte, oppure le picchiavano, se non mortificarle tagliavano i capelli a zero in certe circostanze pubbliche in cui certe donne devono essere messe alla berlina perché gli toglievano l'ornamento più importante alla loro femminilità. Le donne sfregiate con l'acido è un uso che viene da alcuni paesi, ad esempio nel Bangladesh è molto diffuso, gli uomini si vendicano verso le donne sfregiandole con l'acido. È chiaro che la diffusione e la contaminazione delle culture porta in bene, ci porta tante cose che a noi ci piacciono, l'odore del kebab per le strade, la capacità di conoscere e riconoscere persone diverse da noi, ci porta anche l'uso dell'etereo di poter far male alle donne. È chiaro che molti uomini italiani che nemmeno avranno mai avuto fra le mille maniere raffinate di far del male alle donne di cui hanno paura di buttarle l'acido in faccia, oggi hanno uno strumento in più, ma questo naturalmente è irrefrenabile, non credo che dipenda da questo. Luciano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, anche donne, per favore, non soltanto uomini. Oggi vorrei che le donne parlassero. Prego, Luciano, scusi. Mi scuso io, l'ho interrotto forse. No, Luciano, sentiamo il suo parere. No, niente, io sono italiano, piacentino, però diciamo ho fatto qualche anno di Africa, cioè più di 30, fra i quali anche qualche paese arabo. E quello che, cioè, mi sono reso conto è quello che negli anni molto molto lontani, insomma, quando l'uomo ha cominciato a capire la psicologia femminile, cioè che ci sovrastano gli uomini, perché la donna è molto più forte psicologicamente. Quello l'abbiamo sempre saputo però, che prima avevamo strumenti più collettivamente condivisi per tenere la bada, l'abbiamo sempre saputo. Quindi l'abbiamo utilizzata materialmente, dandogli posti dove non assolutamente non aveva più niente da poter dire, niente da poter fare. E qual è il problema oggi? Il problema oggi, io vedo nei paesi africani, che l'uomo sta lasciando la donna molto più libera, nei paesi africani. Invece nei paesi arabi la sta chiudendo molto di più, cioè nel senso che cerca assolutamente di non dargli nessun spazio. Perché si rende conto un giorno più che l'altro che se gli rende quel piccolo spazio, solo per una piccola energia, poi è sovrastato. Non è che dietro c'è proprio un problema di terrore della sessualità, lo dico non sono un antropologo, ma nei paesi africani in fondo l'aspetto sessuale è sempre stato molto, molto trascurabile rispetto a noi, è una delle tante funzioni, mai stato questo potere estremo, profondo, tabuizzato del sesso. Nei paesi delle religioni monoteiste in realtà l'aspetto sessuale, la femminilità è sempre stato qualcosa da guardare, da tenere a distanza, da tenere con grande sospetto, qualcosa che era meglio contenere, meglio regolare. Le donne in sé sono esseri già regolate dalla natura, perché le donne hanno le regole. Ci sono dell'idea che finché la donna avrà una regola biologica non riuscirà a essere uguale all'uomo. Il giorno che le donne rinunceranno alle loro regole, anche quelle mensili, saranno come gli uomini. Ma imporre delle regole alle donne significa annullarne quel potere profondo che riesce a placare gli uragani. Forse proprio questo è il motivo. Certo, certo. Però vede, nel paese africano il tabù sesso è un tabù molto discutibile, perché lo lasciano, cioè è un tabù diciamo pubblico, ma quando poi è nel privato questo tabù è molto più ed è per quello che la poi vede Luciano, noi facciamo come quelli che hanno le corna ma gli piace parlare delle corna del vicino. Abbiamo allargato il problema ai paesi islamici, ai paesi africani, ma non parliamo di noi, parliamo di quello che accade sotto casa nostra, dentro casa nostra. 800 24 0024. Melog, cronache meridiane. Milano, i grandi complessi del lavoro da qui manovrano i fili delle loro attività. A Milano un terzo della popolazione lavoratrice è femminile. Eccole le nostre donne, colte di sorpresa dall'obiettivo per la strada. Eccole sulla scalinata di Trinità dei Monti in Roma. Le ragazze di Piazza di Spagna nell'ora di pausa discendono dai laboratori di moda. Eccole al lavoro dei campi le donne. Le mani svelte ripetono gli antichi gesti nell'intrecciare le fibre di juta in Sardegna. Questo è quello che ci siamo lasciati dietro le spalle. Non esisteva un'età dell'oro in cui le donne avevano la loro considerazione, l'avevano se avevano un ruolo, se con le loro mani svelte intrecciavano i sacchi di juta, se erano delle brave operaie, delle perfette mondine, delle impeccabili madri di famiglia. Leggo i messaggi SMS, individuo la radice che qualcosa non funzioni fra uomini e donne. Quando mi scrive Gino Nicoletti, in un verso o nell'altro trovi sempre il pretesto per parlare di tette fighe, sei sicuro di non star malato? Ecco, io sfido chiunque a pensare che io abbia parlato di attributi sessuali femminili con una sorta di retrogusto di morbosità, almeno in questa trasmissione. Non sono alieno dalla morbosità, non sono alieno da tutti i limiti che può avere un essere umano. Un'altra persona dice più o meno la stessa cosa, meno male che le tue esternazioni idiosincratiche sono limitate solo a mezz'ora, Gianni. Non so cosa voglia dire. Invece mi soffermo nell'immagine che più mi fa riflettere su questo paginone di Repubblica 2. L'estetista Lucia Bellucci, uccisa a Trento dal suo ex, e vedo l'ex. L'ex non ha nessuno stigma dell'uomo violento, dell'uomo bruto, dell'uomo incapace di intendere e volere, dell'uomo rozzo. È un signore ben vestito, con un bel vestito grigio, con una camicia bianca, una bella cravatta in tinta, capelli ben giustamente, adattatamente scomposti, anche un bel sorriso, non nemmeno una faccia da persona violenta. Ecco, come mai nell'uomo banalmente normale si nasconde questa profonda paura della donna che fa scrivere all'ascoltatore Gino, lo fa rabbrividire e tremare solo perché cito gli attributi femminili in un contesto che sia quello di YouPorn? Yat, buongiorno. Buongiorno, eccomi. Ho chiamato perché Io vivo in Italia da 19 anni, convissuto con, ho avuto le mie storie come tutti gli uomini, con il genere femminile, e a un certo punto mi sono detto siamo troppo diversi, sono corso a sposarmi al mio paese. Moglie vuole i paesi suoi, lei è senegalese. E che mi faceva anche tanto ridere la battuta, perché me le dicevo l'ortolano e gli rispondevo sì, dei paesi tuoi, indicando il mio dito, ma non la colta, se no fa niente. E allora mi sono sposato con mia cugina, copiando l'esempio di mia madre, della mia famiglia. È tradizione sposarsi fra cugini, ma accadeva anche dalle nostre parti in altri tempi, non è che è una cosa così difficile da immaginare. Allora, cosa è successo? Mi sono trovato gli stessi problemi relazionali con le donne che ci sono qua in Europa, in Italia. Lo sa perché, Iatt? Perché adesso è un momento in cui le culture sono abbastanza mischiate, abbiamo sott'occhio tutti gli altri. È facile, di fronte a una domanda come quella che ho fatto, la facevo soprattutto ai miei concittadini, a quelli che sono nati come me, vissuti come me, non per escludere gli altri, perché è una domanda che mi faccio, visto che in questo momento il tema del femminicidio, la violenza sulle donne, è un tema così attuale, così cavalcato, così politicamente gratificante per chi ne faccia la propria bandiera. E le prime telefonate erano tutte con il dito puntato verso gli altri, i paesi islamici, gli africani e via dicendo. Mi faceva sorridere, dico, in questo momento sto cercando di capire quello che accade a casa nostra, dentro casa nostra, che finché guarderemo fuori sarà molto difficile. Lei, con il suo, come sia sincero, ci vede particolarmente in difficoltà nella gestione dei rapporti con le donne? Lei vede, a fine è tornato a casa, sua madre l'ha preparato la cugina, bella, lì, pronta, se l'è sposata, lei vivrà felicemente con la sua sposa, perché è perfettamente in linea con quello che è la sua tradizione, anche se vive qui da noi. Ecco, qual è il nostro problema secondo lei? Allora, premessa, è finita male con mia cugina. Vi siete lasciati? Eh no, ci siamo lasciati dopo un anno, perché comunque non c'entravamo niente. Altre cugine a disposizione o sono finite le cugine? No. Mi pare che ho sposato una sola, ma non mi è servito niente. No, ma adesso, dico, se volesse riprovarci, ha altre cugine a disposizione? No, convivo con una italiana. Ah, beh, ha cambiato adesso. Quasi felicemente. E che io vedo qua, che penso, il mio pensiero, che c'è il disincontro dei due generi. Perché io almeno mi aspetto che ci sia tatto e sensibilità verso il partner, la partner. E che non è una materia che si studia a scuola, e che se io, per quanto siamo diversi culturalmente, almeno il mondo mi... Ma lei l'ha mai menata la sua fidanzata? Non ci penso neanche. Io non le viene manco in mente. La donna è la cosa più bella per uno che... No, se no anche, guardi, degli scorpioni che si attaccano alle palle fanno anche male, anche questo. Sono tutto e il contrario di tutto, non esageriamo nemmeno nei ritratti di Liesch. Poi, in effetti, se il problema è quello di cui si parlerà questa giornata nazionale degli uomini che mettono le mani addosso alle donne per farle male, partiamo dalla radice del problema. Perché gli uomini hanno talmente tanti problemi con le donne da imporre la loro superiorità fisica, che è l'unica che possono comunque mantenere, semplicemente perché hanno più muscoli e sono più grossi? Grazie, Iatt. Riccardo. Oh, salve Nicoletti. Ecco. Salve, volevo aggiungere questa cosa. In precedente puntata avevamo parlato sempre del rapporto madre-figlio, l'educazione, famiglia morale, eccetera, eccetera. Come la madre, o come madre mammona, diciamo. Sempre donna è comunque la madre, non sì. È che smette entra di essere. In gioco nell'educazione e anestetizza il figlio, la passione, il sesso, una serie di cose. Nella mia esperienza come uomo, diciamo, i miei genitori mi hanno dato il concetto del rispetto, la sensibilità, come diceva l'ascoltatore precedente. Però ho notato che nella crescita, come tanti altri coetanei, quello che ci faceva spaventare delle donne, la paura fottuta, come dice lei, è che non avevamo nessuno strumento diciamo, dell'educazione in merito al sesso, alla passione, a tutta una serie di cose. Che ma sono secondo lei, quelle... scusa, maestri di passione non essere genitori verso i figli. Forse è l'unica cosa in cui è molto difficile trasmettere il testimone a un figlio o una figlia. La passione o la si scopre, la si coltiva, la si fronteggia, o se no chi potrà mai insegnarti la passione, che in fondo è la ragione, sì, che in realtà è esattamente il contrario di quello che si dice, non c'è il delitto per passione, chi uccide non ha nessuna passione, ha ucciso ogni passione. È una cosa, diciamo, autonoma, io diciamo non ho avuto mai problemi, però quando senti in giro appunto ragazzi, 30 anni, 5 anni, che picchiano ragazzi, anche straniere, penso una ragazza che ha fatto il tirocinio qui a Potenza presso l'ospedale, ha conosciuto in Italia nella picchiata costantemente perché aveva questo suo, diciamo, modello di... Molti uomini picchiano le donne, guardi, fra i giovani, fra le mezze età e fra gli anziani, molto diffuso, più di quanto si pensi. Raccolgo testimonianze di insospettabili signore e signorine picchiate ai loro uomini, lo tengono nascosto, lo coprono con il fardo. Benissimo, ho parlato di donne, non ha chiamato nemmeno una donna. A lunedì.